Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. I single non potranno adottare bambini dopo l'affidamento. Al Senato la possibilità è saltata, prima con il ritiro dell'emendamento e poi dell'ordine del giorno della senatrice del PD Francesca Puglisi al DDL sulle adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie. Dal punto di vista politico, il ritiro ha evitato una spaccatura nella maggioranza al momento del voto. Nel dettaglio, Puglisi ha ritirato l'emendamento pro single per le perplessità di vari colleghi del PD per la contrarietà di AP e su richiesta della relatrice Rosanna Filippin. Da qui la trasformazione in ordine del giorno, ma non è bastato per via della contrarietà del centrodestra. Successivamente la senatrice ha spiegato che l'obiettivo dell'emendamento non era aprire a scorciatoie per... Non entro nei particolari, mi sembra di intuire a naso che le grandi coalizioni, i grandi patti, le intese trasversali di fronte a un tema indissolubile, insoldabile, insondabile, intangibile come quello della difesa della Sacra Famiglia vanno a farsi benedire. Cosa è accaduto ieri? Ieri è accaduto che il Senato... è passata in Senato una legge secondo me importante sulla cosiddetta continuità affettiva, che riguarda comunque un vincolo di affetto, di reciproca attenzione che si stabilisce nelle coppie che hanno comunque in affido un bambino, che può prolungarsi perlomeno a una via di una corsia preferenziale per trasformare questo affido in adozione. Mi sembra una bella cosa. Adesso andrà alla Camera, vedremo quello che succede, però naturalmente attorno a questo sorge un universo che pullula di se, di ma, di distingo, di prese di posizione. Vediamo di capire questa mattina, al di là dell'ideologia, esattamente di cosa stiamo parlando. Gianetto Regassani, buongiorno. Buongiorno. Presidente dell'AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, autore del libro Perplessi Sposi. Ci siamo sentiti poco fa e mi ha detto l'avvocato Gassani: guarda, questo è un argomento che secondo me vale la pena di essere affrontato. Vediamo il tuo punto di vista intanto, avvocato Gassani. Per te saranno problemi in meno come avvocato matrimonialista? Quanto l'affidamento dei bambini, che potrebbe trasformarsi in adozione, finora ha rappresentato un problema? Noi avvocati della famiglia siamo impegnati molte volte anche per le adozioni, soprattutto quando ci sono dei ricorsi da fare in appello, quando alcune coppie non ricevono il decreto di idoneità, quando non sono autorizzate ad adottare, quindi interveniamo spesso, anche perché non siamo soltanto di sfascia famiglia, ma siamo anche coloro i quali costruiscono nuovi affetti e nuovi assetti. Detto questo, devo dire che purtroppo le adozioni in Italia sono sempre più rare. I bambini restano quindi soli, soprattutto all'estero, negli internati. In Italia le adozioni nazionali sono ormai un fatto residuale. Addirittura, secondo i dati della Commissione Adozioni Internazionali, negli ultimi 24 mesi c'è stata una riduzione quasi del 40% del numero di adozioni internazionali. Un fatto strano, considerando che l'Italia era al primo posto nel mondo in proporzione al numero degli abitanti in termini di numeri di adozione internazionale. Cioè, ecco, entriamo generosi. Gianetto, vediamo di far capire. Intanto il pubblico può chiamare all'800240024 per capire, da qualche testimonianza diretta, da qualche esperienza personale, quanto questo può cambiare la vita, o perlomeno le prospettive e progetti di tante coppie che hanno comunque avuto un bambino in affidamento. In sintesi, mi sembra che quello che è passato al Senato di dice che se un minore che è in affido a una famiglia viene dichiarato adottabile, i genitori per legge potranno avere una corsia di preferenza, cioè dopo anni che hai avuto un bambino in affido sei, diciamo, in pole position per poterlo adottare. Questo è un termine importante secondo te? Infatti credo che questo disegno di legge parta proprio dai dati che davo prima, cioè siccome stanno riducendosi le adozioni è importante incentivarle. Credo che questa sia una cosa assolutamente importante, anche perché molte volte i genitori affidatari adorano questi bambini che non sono ancora adottati al pari dei figli propri e al pari dei figli adottivi. E finora hanno avuto l'angoscia che non saranno mai figli loro a tutti gli effetti. Figlio loro significa che puoi dare una successione a tuo figlio, puoi dargli un nome e inserirlo in tutto ciò che c'è di positivo dal punto di vista del diritto nel fatto di avere una famiglia. Assolutamente, diventeranno figli, e devo dire che ho visto persone in ginocchio, disperate, quando questi figli a un certo punto andavano via, perché l'affidamento è sempre un fatto temporaneo. Dopo aver creato una fitta trama di rapporti con tutta una famiglia, questo bambino andava via perché la legge imponeva che non ci fosse un'adozione, che non ci fosse una continuità, quindi delle tragedie infinite, il doppio abbandono, bambino abbandonato dalla famiglia di origine, abbandonato poi dalla famiglia affidataria perché una legge rigida e stupida così diceva, quindi credo che sia una buona svolta. Intanto dal numero 800240024, quanto vi tocca da vicino questo che è accaduto, che è passato in Senato, quanto pensate questo possa in qualche maniera darvi speranze per voi coppie che avete comunque avuto bambini in affidamento, che saprete che d'ora in poi sarete i primi ad essere sotto esame per poterli comunque adottare. Il punto 2 invece, quello che ha creato, mi sembra, più spaccatura, sono i vincoli stabiliti rispetto a questa legge. Soltanto gli affidatari sposati potranno accedere all'adozione del bambino che hanno allevato. Per i single e le coppie di fatto questo non vale. Ma questa è una cosa che io non riesco proprio a capire, a concepire. Io mi rendo conto che ci sono i compromessi della politica che io non faccio, che non farò mai. Però credo che ancora una volta l'Italia è un paese arcaico da questo punto di vista. Noi manteniamo milioni di bambini negli internati dell'Est, dell'Africa nera, dell'America Latina, pur di non cedere su alcuni punti, su alcuni totem della nostra concezione tradizionalistica della famiglia. Mi sembra una cosa singolare, sai Gianetto, il telefono tace. Io do il numero ancora 800240024, comunque a questa fase della trasmissione il telefono era arroventato. Ieri abbiamo parlato di banalità assurde come l'isola dei famosi, abbiamo avuto 30 telefonate in pochi istanti. Oggi mi preoccupa molto, perché anche vedo poi oggi invece le interviste a fronte di questo dibattito. Il primo a stappare champagne è proprio Carlo Giovanardi, dice: i limiti sono giusti, così se aprissimo ai non sposati favoriremmo i gay. Questo è il grande spettro che si aggira sul nostro paese, che le persone omosessuali possano adottare dei bambini. Ma io penso che da questo punto di vista, insomma, l'Italia debba uscire fuori da queste sabbie mobili di un moralismo esasperato. Io sono un laico da questo punto di vista, ritengo che anche un single potrebbe tranquillamente avere in adozione un bambino, ma soprattutto immaginiamo il mondo dei separati e dei divorziati, magari gente che ha messo già al mondo figli, che conosce perfettamente come funziona una famiglia. Perché una donna separata o un uomo separato non potrebbero eventualmente dare amore a un bambino e liberarlo da un internato, da un'orfanotrofio? Cioè, io non riesco a capire la folle rigidità di questi politici. Beh, è chiaro che è una questione che non riesco a capire. C'è un pregiudizio sacrale rispetto a questa cosa. Se non sei sposato in Italia sei un fuorilegge, sei un bandito. Basti pensare che le coppie di fatto non sono regolamentate da niente. Questo è un paese molto più oltranzista dell'ISIS, veramente delle formazioni più incredibili. Questa è grossa, comunque sì. Ma guardate, io dovete immaginare una cosa, che negli ultimi 2 anni la formazione delle coppie di fatto ha superato le coppie di sposati. Come vogliamo interpretare questa cosa? Che probabilmente gli italiani sono molto più moderni delle leggi che li regolano, perché noi dobbiamo ragionare. Io potrei avere il mio punto di vista, io credo nel matrimonio, ma non mi permetterei mai di creare dei vincoli e pensare che una famiglia non legata al matrimonio sia una famiglia di serie B che non meriti tutela. Sì, sembra quei paesi che ancora portano il santo patrono in processione, quando ormai diventa un fatto soltanto di passerella dei maggiorenti del paese, nessuno dà più un senso, un profondo e spirituale al passaggio di quel santo. Ma perché poi una coppia di omosessuali, voglio dire, è una coppia di serie C addirittura, ma perché non riusciamo a uscire fuori da questa situazione? Ma non so, penso che al matrimonio, ma insomma, il problema sia che immagino che gli omosessuali adottino bambini e poi farne oggetto ma delle loro passioni, non lo so. L'adozione degli omosessuali, ma qui il problema è che gli omosessuali, anche la stessa Suprema Corte di Cassazione, pure mettendo dei provvedimenti coraggiosi, può fare nulla, nel senso che purtroppo se già le coppie eterosessuali sono fuori dal codice civile, figuriamoci quelle omosessuali. Io credo che l'Italia, indipendentemente dal proprio credo religioso, dalle proprie posizioni politiche, debba consentire a tutti di vivere, di esistere, e consentire soprattutto, parlavamo di adozioni, a tanti bambini di uscire fuori dalla fine certa di orfanotrofi allucinanti. Questo è il discorso. Io penso una cosa, penso che ci possano essere un'infinità di persone con buone disponibilità economiche, quindi con la, su questo controllerei piuttosto, quindi con possibilità di offrire a un bambino un dignitoso cammino di vita, lo studio, l'istruzione, una vita decente, poter accedere comunque al mondo del lavoro, ammesso che, o perlomeno provarci come ci stanno provando tante altre persone, perché questi non devono avere la possibilità di far felici le persone. Giorgio, buongiorno. Morire i bambini pur di non far morire i nostri totem. Il discorso è anche sui costi delle adozioni, caro Gianluca. Noi ieri abbiamo preso una posizione ufficiale, ma perché un'adozione deve costare dai 7.000 ai 25.000 euro? Cioè, perché soltanto i ricchi possono adottare? E perché bisogna accendere mutui in banca per dare un gesto d'amore a un bambino? Cioè 25.000 euro ci paghi l'università un ragazzo, per dire. No, gli fai la cameretta, gli dai, ma io immaginiamo oggi una situazione di crisi economica drammatica, un paese in ginocchio, è normale che abbiamo ridotto le adozioni al 40%. E la questione è un'altra, noi garantiamo ai mafiosi e ai camorristi il gratuito patrocinio, si possono far difendere dai miei colleghi penalisti migliori, con parcelle di centinaia di migliaia di euro a volte per i maxi processi nelle aule bunker, benissimo, ci sono i soldi per i mafiosi e non abbiamo i soldi per salvare i bambini all'internato. Allora finiamola di parlare dell'interesse del minore, della tutela dei minori, sono solo parole. Ecco, fermati effetti, un attimo Gianetto, un attimo solo, fermo la tua arringa giusta e condivisibile, perché devo dare le informazioni del traffico, ci sono poi degli ascoltatori in attesa e li faremo intervenire, ma tra un istante. Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando della novità di questa mattina, è passata in Senato la legge sulla continuità affettiva, che ha un bambino in affidamento può avere buone possibilità, perlomeno in corsia preferenziale, alla prelazione per poterlo anche adottare. Questo non vale per i genitori non sposati o per i single, o perlomeno se vogliono i single che hanno già un bambino in affidamento adottarlo, devono ricorrere alle cosiddette adozioni speciali, cioè dovrà decidere caso per caso un magistrato, quindi è stata complicata la vita alle persone non regolarmente sposate. Ne stiamo parlando con l'avvocato Gianetto Regassani, che è presidente dell'AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, che hanno preso una posizione ben precisa nei confronti di questo provvedimento, di questa legge, poi dovrà ancora passare per la Camera. Sentiamo qualche ascoltatore. Gianpaolo. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire, scusate che sono un po' emozionato a parlare per radio, anche se vi ascolto spesso. Io brevemente volevo dire che spesso si perdono delle occasioni, come in questo caso. Io sono, ho 39 anni, sono vedovo e nonostante questo, anche se non ho una compagna al momento, ho una figlia di 10 anni che tento di tirar su in tutte le maniere possibili. Che è sua figlia però a tutti gli effetti. Sì, è mia figlia a tutti gli effetti, però il paradosso è che comunque secondo questo modo di vedere io non sarei neanche in grado comunque di occuparmi di una mia figlia a tutti gli effetti in quanto single. Cioè lei, Gianpaolo, sta dicendo a me la moglie è morta, non è che sono single per scelta, comunque sia una figlia di 10 anni la sto allevando, esatto. Gioco forza. Tante persone nelle condizioni psicofisiche di Gianpaolo potrebbero allevare benissimo dei figli da soli, non sta scritto a nessuna parte, sì, che un padre o una madre da solo, se ha volontà, capacità e mezzi, non possa allevare un figlio. È chiaro che è un pregiudizio di tipo etico dire non possono i single, ma i single, se non esistesse il problema dei single con una loro scelta sessuale diretta all'altro sesso, non ci sarebbe nessun problema, sarebbero tutti d'accordo. Il problema è che si vuole fare una barriera per il terrore e la paura che persone non eterosessuali, diversamente eterosessuali, possano avere dei bambini in adozione. Lucrezia. Sì, buongiorno. Sì. Io vorrei chiedere se questi politici che pongono questi limiti così definiti all'adozione per i single sono mai stati in un orfanotrofio, hanno mai visto le condizioni dei bambini, perché io ci sono stata anni fa in un orfanotrofio in Africa e ci sono così tanti bambini con così poche persone che riescono a prendersi cura di loro, alcuni bambini a 3 anni non erano capaci di camminare perché poverini tenuti sempre nelle cullette perché non c'è nessuno che può occuparsi di loro, insegnargli a camminare, stargli dietro come farebbe o una famiglia o anche una persona single. perché allora questo vuol dire che tutte le madri o tutti i padri separati che hanno dei figli naturali loro sono dei genitori che non sono capaci. È il caso dell'ascoltatore che ha telefonato poco fa, dice: io ce la sto facendo da solo. Ci sono fasi anche delle vite matrimoniali in cui su un coniuge pesa più che sull'altro il peso dell'allevamento di un figlio, per motivi di lavoro, per motivi di salute, per motivi di particolari situazioni di salute di questo bambino. E questo accade lo stesso tranquillamente, molte volte ci si divide i compiti, qualcuno pensa più a lavorare, sono coniugi che devono stare mesi fuori casa perché devono sostenere la famiglia, e comunque chi rimane alleva i figli, quindi non è un paradosso insolubile che una persona da solo allevi un figlio. Ma evidentemente, ripeto, il problema è proprio quello. Patrizia, buongiorno. Salve, sì. Ciao. Niente, io volevo intervenire per dare il mio contributo. Anzitutto penso che un figlio quando nasce non si sa dove, quindi potrebbe nascere una famiglia che, anche se apparentemente completa di due personaggi, maschio e femmina, che dir si voglia, comunque potrebbero non occuparsene nella maniera adeguata per quel bambino. È sempre una scommessa quella. Lei è una madre adottiva, Patrizia? Io sono una madre adottiva e sono una madre naturale, sono una madre, uno. E, se vogliamo specificare, sono una madre naturale perché ho una figlia più grande, e poi abbiamo voluto affrontare proprio questo discorso. Avete adottato un altro bambino? Sì, esattamente. Lei sta parlando di una famiglia, fra virgolette, regolarmente costituita e santificata. Se voi non foste sposati, cambierebbe qualcosa? Se lei e suo marito non aveste fatto un patto matrimoniale, che cambierebbe per voi? Esatto, no, ma il patto non è quello che viene sancito, diciamo, sulla carta, è quello che nasce effettivamente dal cuore. E dal cuore, c'è questo, dalla prassi quotidiana e via dicendo. Esatto, dal riuscire a vivere in maniera... Chiaro. Maria Rosa, buongiorno. Maria Rosa. Buongiorno. Sono scatenati tutti adesso. Lo so, però purtroppo... Come va? Buongiorno, complimenti. Vada al punto che sto per chiudere. Allora, guarda, il punto è questo. Io 30 anni fa ho adottato una bimba in Colombia e con una trafila non puoi immaginare, tribunali, carte, controcarte. Il discorso è, volevo dire questo, anche a noi avevano proposto allora il bambino di tenerlo momentaneamente. Siamo una coppia normalissima. Si va dal punto, Maria Rosa, se no devo allora segare. Il punto è questo, che d'accordo, le leggi, io volevo dire questo, che bisognerebbe ragionare con logica e con critica costruttiva da ambo i pad, da tutte le parti. Perché se non c'è una legge che, diciamo, protegge questi bimbi, un domani che due si separano, non è che uno dice: ma le coppie se non sono di fatto... Lei detto, dice una cosa sacrosanta, Rosa, scusi se la seguo, ma sta finendo il tempo. Non è scritto da nessuna parte, perché danno per scontato i propugnatori della Sacra Famiglia che la famiglia rimanga così sempre, in eterno, no? Le famiglie, uno può adottare un figlio, poi la famiglia può esplodere comunque. Davide? Pronto? Una battuta, sì. Guardi, io sono allenatore di calcio, ho avuto un bambino portato in Italia da un orfanotrofio in Bielorussia, le dico che questo bambino a 15 anni non aveva attività motoria, praticamente era indietro di 6-7 anni a livello motorio, mi raccontava che li legavano al letto e che i bambini facevano branco in modo animale. Delle robe che sono... E chi l'aveva adottato questo bambino? Chi l'ha adottato? Com'è? Chi l'ha adottato questo bambino poi? L'hanno adottato, guardi, io adesso mi sa che è andata anche da Magali, sua madre, l'unica donna single che è riuscito... Ecco, lei, Davide, il punto che lei diceva, che questo bambino che veniva in una situazione paurosa di tortura, allevato da una donna single, comunque ha ritrovato la possibilità di vivere. Giannetto Regassani, a te la conclusione. Ma l'Italia è un paese di divorziati, non esiste alcuna indissolubilità del matrimonio, con 16 euro si va al comune, si firma un modulo e si toglie di mezzo un matrimonio, quindi parliamo di sacramenti, di solvità, tutte cose che non esistono più nella legge. Io inviterei tutti i politici italiani a farsi una gita in tutti gli orfanotrofi del mondo per poi tornare in Italia diversi da come sono partiti e capire che bisogna aiutare i bambini, non bisogna essere ancorati e schiavi dei propri pregiudizi e mandare alla morte sicura tanti bambini, perché ho sentito anche i radioascoltatori, ci sono bambini che non sanno camminare, bambini che muoiono di fame, di malattie, lo sappiamo tutti che è così, tutti almeno una volta nella vita abbiamo viaggiato in certi paesi, quindi sembra che il Parlamento italiano sia in un altro paese, non sia in Italia, perché gli italiani, ripeto, sono il popolo più moderno del mondo, meriterebbe altre leggi. Grazie Gianetto Rigassani, a domani.